la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16.30, primi 47 secondi, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia qua in diretta dagli studi di Milano di Radio 24, per chi ci ascolta in diretta o per chi ci ascolta in podcast, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Oggi parliamo di Sicilia perché ci sono alcune notizie di fronte alle quali veramente vi chiedo di dirci come la pensate dopo averle ascoltate, in particolare una, ne dirò due. L'argomento della trasmissione, al di là delle due notizie con cui comincerò, è in realtà un altro, è un approfondimento su una legge regionale siciliana, la legge numero 12/2016, che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Regionale il 19 di agosto. E ci è stato segnalato, vi spiegheremo nel corso della trasmissione, da un esperto avvocato amministrativista, che questa legge regionale, di cui ricorderò il pregresso perché nel dibattito si parlava di un nuovo maxi condono edilizio in Sicilia, questo sarà l'argomento, in realtà, andando a vedere anche il testo che è stato approvato, cosa che nessuno ha notato perché io sono a telefono da stamattina con esperti delle diverse categorie, geometri, abbiamo chiamato anche Legambiente eccetera eccetera, nessuno ha fatto caso a due cose che in questa legge regionale di recepimento delle norme nazionali in realtà sembrano proprio due furbate, di cui la prima sembra proprio aprire all'ipotesi di un maxi condono edilizio. Ma prima di arrivare a spiegarvi questo e di interrogarci sull'argomento, lasciate che cominci chiedendovi un'opinione su questa notizia. Notizia che è stata tirata fuori, pubblicata da Repubblica nelle pagine siciliane, in quotidiani siciliani era noto, e poi anche a livello nazionale da Repubblica, e riguarda questi commissari all'ordinanza urbana nominati dal prefetto di Catania, di cui abbiamo appreso dei compensi pazzeschi. Di che cosa si tratta? Si tratta due professionisti che solo per questi due incarichi commissariali in un anno e mezzo hanno incassato, al netto dei compensi per i rimborsi, in un anno e mezzo 540.000 euro a testa, e se ci sommate i rimborsi arriviamo a 800.000 euro a testa in un anno e mezzo. In un anno e mezzo il commercialista catanese Maurizio Cassarino e l'ingegnere Ravennate di Ravenna, esperto di tematica ambientale Riccardo Tenti, sono costate questi soldi alle società che amministrano, e le amministrano perché è stato il prefetto di Catania, Maria Guia Federico, a individuarli come commissari. E a questi 800.000 euro a testa in un anno e mezzo si sommano 450.000 euro dell'ex prefetto di Messina Stefano Scammacca, che è il terzo commissario individuato dal prefetto di Catania per gestire la discarica Valanghe d'Inverno. Allora, cosa possiamo pensare di compensi così pazzeschi? Il caso è stato sollevato dalla società Oikos di fronte al TAR, sarà il TAR del Lazio che si dovrà pronunciare, e questa società ha citato appunto il prefetto di Catania, che ha assunto questa decisione, al Ministero dell'Interno chiedendo le soluzioni di 600.000 euro, perché vengono messe in questione la legittimità dei criteri in base ai quali si arriva a questi compensi. Cioè, in altre parole, i parametri e le maggiorazioni con cui sono calcolati i valori di base a cui si arriva a queste cifre vengono considerate arbitrarie, illegittime e quindi favori, per intenderci. Ma la cifra è tale che veramente uno rimane senza parole. 800.000 euro a testa in un anno e mezzo e 450.000 euro a un altro ex prefetto, per poi, leggete oggi sempre Repubblica eccetera eccetera, appurare che la gestione dei rifiuti va in Bulgaria, cioè serve per imbarcare i rifiuti che non si riescono a smaltire verso le navi in Bulgaria. Allora, detto tutto questo, e questa è la prima notizia. La prima notizia è questa. Io non voglio commentare. Seconda notizia, questa si trova dal Quotidiano di Sicilia Oggi. Formazione professionale in Sicilia, oltre 8.000 dipendenti, ce ne siamo occupati più volte, che fanno lievitare i costi di corsi inutili al lavoro. Pensate che alla Regione Sicilia costano allora 91 euro l'ora questi corsi. 91 euro. Se andiamo a vedere ogni euro di corso finanziato dagli enti regionali siciliani, 91 euro. Se andiamo a vedere le altre regioni italiane, per esempio Toscana sono 63 euro, Molise 70 euro e così via. Allora, come si arriva a 91 euro l'ora in Sicilia? Tenete conto che nel frattempo la stessa giunta regionale ha dovuto mettere mano alla presa d'atto, per così dire, che ci sono migliaia di formatori di troppo, e quindi naturalmente la polemica in Sicilia è non solo sui costi, ma soprattutto sul fatto che adesso bisogna mandare a casa formatori. Come è ovvio, questa formazione con questi costi viene fatta pensando a coloro che prendono i soldi, non a coloro a cui bisogna dare titoli per trovargli un posto di lavoro. Questi numeri peraltro non vengono dalle fonti ufficiali della Regione Sicilia, ma sono riportati nell'ultimo rapporto che è appena pubblicato dall'ISFOL, cioè l'Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori, e il monitoraggio che l'ISFOL compie a livello nazionale sul sistema della formazione. Anche qua siamo in presenza di costi totalmente folli. Ma andiamo alla questione invece più importante. Noi sia la mattina con Alessandro Milan sia il pomeriggio in due occasioni ci siamo occupati, nella mia trasmissione ma anche in altre trasmissioni di Radio 24, ci siamo occupati l'anno scorso di una maxi ipotesi di condono in cui l'Assemblea regionale siciliana esaminava la possibilità, incardinandolo appunto nella legge regionale di recepimento delle regole nazionali, che poi è stata approvata, ve l'ho detto all'inizio, ad agosto, porta il 2 agosto 2016 è stata approvata l'Assemblea regionale siciliana, era il disegno di legge numero 841 che recepisce il testo unico in materia di edilizia nazionale. E di che cosa si trattava? Si trattava di un'ipotesi che riammetteva al condono edifici costruiti in buona fede, sosteneva l'emendamento che si voleva introdurre in questa legge regionale, costruiti in buona fede tra il 1986 e il 10 agosto 1985. E questi abusi in buona fede riguardavano le case proprio nella fascia dei 150 metri dal mare, che non sono state mai regolarizzate, ma sulle quali i proponenti nell'Assemblea regionale siciliana dicevano che c'era una difformità di interpretazione tra uffici della legge nazionale di condono edilizio del 1985, rispetto invece al decreto Galasso che poneva il divieto. Tenete conto che in Sicilia le domande di sanatoria giacenti negli uffici a vario titolo e diverso titolo pendenti per i due ultimi condoni ammontano alla bellezza di un numero che, quando io ho letto, ho pensato fosse un errore di stampa, e che invece non lo è. Stiamo parlando di domande di sanatoria immobiliari nel numero di 700.000 unità, 700.000 unità relative agli ultimi 4 decenni, 700.000. Allora, l'Assemblea regionale siciliana espunge poi, perché viene dichiarato inammissibile, l'emendamento con il quale si proponeva la riapertura e la riammissione al condono degli edifici costruiti nella fascia dei 150 metri dal mare, addirittura dagli anni 70. Se non che questo testo, che appunto recepisce direttive nazionali, va letto con grande attenzione, perché, e adesso vi presento l'ospite, scopriamo che in due punti il recepimento delle norme nazionali, ed erano numerosi i recepimenti che andavano introdotti nell'ordinamento siciliano, quello sui cambi di destinazioni d'uso, lo sportello telematico, il modello unico elettronico, l'estensione a due anni del permesso di costruire, quindi c'era praticamente tutta l'impalcatura tecnica della normativa su questo della Regione Sicilia, era fuori fase rispetto a quella nazionale. Però su due punti l'interrogativo viene, e io ringrazio chi mi ha segnalato e ora vi presento questo interrogativo. Noi, ripeto, abbiamo chiamato anche Legambiente, ma nessuno pare, sembra fino a questo momento essersi reso conto di questi dubbi pesanti che adesso noi vi spieghiamo, sui quali speriamo di sbagliarci in buona fede, ma che a un'attenta lettura sembrano preludere al fatto che i legislatori siciliani hanno, per così dire, strizzato l'occhio. Ecco, allora, chi ha attirato la mia attenzione su questo è un avvocato amministrativista, si chiama Rocco Todero ed è con noi collegato a telefono. Buon pomeriggio e grazie di essere con noi e del lavoro che ha svolto anche sollecitando la nostra attenzione. Buon pomeriggio, grazie a voi. Allora, tentiamo di spiegare adesso perché questa legge regionale numero 16 del mese di agosto scorso siciliana può essere, o almeno avanziamo il dubbio, però spieghiamolo bene, perché immagino che protesteranno poi i membri della giunta siciliana e siamo pronti alla loro risposta, può essere che su due punti non torni proprio con l'intenzione dichiarata e perseguita del recepimento delle norme nazionali. Di che cosa si tratta, avvocato Todero? Allora, il dubbio è questo. A livello nazionale esiste una norma che è contenuta nell'articolo 36 del testo unico dell'edilizia che dice che se un cittadino realizza una costruzione senza avere prima ottenuto la concessione edilizia o quella che oggi si chiama permesso di costruire, sì, esatto, può sanare questa costruzione a condizione che la costruzione rispetti sia i parametri urbanistici che erano vigenti al momento della realizzazione della costruzione stessa, sia i parametri urbanistici esistenti al momento in cui chiede, in cui si presenta l'istanza al comune per sanare. Si chiama richiesta della doppia conformità per l'accertamento di conformità stessa. Quindi in parole povere, tentiamo di vedere se ho capito e se non commetto un errore per spiegare a chi ascolta. Questa doppia conformità significherebbe che in questo caso la sanatoria è ammessa non per chi ha violato la legge, né quella vigente all'epoca in cui ha fatto i lavori, né quella in cui inoltra l'istanza, ma semplicemente perché non ha comunicato, eccetera, eccetera. Capito bene? È così, è proprio così. Si tratterebbe di una violazione, ce ne sono state parecchie in Sicilia, meramente formale, cioè il cittadino non ha chiesto la concessione edilizia, però o perché è stato bravo o per fortuna ha costruito un immobile che comunque è meritevole di avere la concessione edilizia e permesso di costruire, perché comunque li rispetta questi standard. Sia quelli di quando ha fatto l'opera, sia quelli di quando avanza l'istanza. Cosa significa questo? Questo significa che se tu realizzi una casa senza concessione edilizia, rispettando i parametri che vigono nel momento in cui tu la costruisci, ma poi cambia per esempio la disciplina urbanistica del piano regolatore generale, tu questa casa la devi demolire. Non la puoi sanare. Non la puoi. Al contrario, se quando la realizzi non rispetti i parametri, ma ti trovi un piano regolatore che tenta di sanartela dicendo vabbè, ma con la nuova disciplina ci rientri, non puoi sanarla nemmeno in questo caso, perché sarebbe conforme a quella nuova, ma non a quella vecchia. Chiarissimo. Ma su questo, la norma nazionale è chiarissima, cioè non è ambigua, non è consentita alcuna interpretazione diversa. È chiarissima. Ed è chiaro che questo significa, cari ascoltatori, il no blindato, stando alla legge, a chiunque, per così dire, approfitti di modifiche o magari voti chi fa condoni dicendo vabbè, il condone cambia le cose, anche se quando l'ho fatta non potevo farla, ma dopo sono cambiate e posso sanare. La legge nazionale dice no. Soprattutto quando è possibile, diciamo, spingere sugli amministratori locali che possono promettere un cambio di regime del piano regolatore generale che, come sapete, deve essere adottato dal Consiglio Comunale e poi approvato dagli organi regionali. Per togliere il dubbio che è stato sollevato, dice il proprietario o il responsabile dell'abuso in sanatoria può sanarlo se risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione dello stesso e al momento della presentazione della domanda. Perfetto, inserito con il decreto legislativo 301 del 2018. E invece la legge regionale siciliana approvata ad agosto su questo punto recepisce o non recepisce? No, perché la legge regionale all'articolo 14 dice, guardate che per sanare, tra virgolette, o per rendere conforme una abitazione è sufficiente che sia conforme ai parametri urbanistici esistenti al momento in cui fai l'istanza. Solo al momento in cui fai l'istanza. Il che significa che se tu oggi fai una casa abusiva e domani il comune in zona agricola, perché non potevi farla o perché comunque l'hai fatta più grande di quanto consente l'indice di fabbricabilità in zona agricola, che è lo 0,01 di superficie, lo 0,03 di volume, e poi però il comune con un tratto di penna dice va bene, questa zona agricola la facciamo diventare adesso zona tu inoltre la tua domanda e si fa la sanatoria. Tu inoltre la domanda e c'è la sanatoria. Quindi e la legge regionale siciliana, a leggerla su questo, cari ascoltatori, non fa altro che spalancare la porta alle sanatorie da parte dell'amministrazione locale. È chiaro qual è il nostro dubbio. Come cacchio è possibile che nessuno se ne è reso conto? Ma come è possibile vivere in un paese in cui, per quanto tentiamo di ripetere da decenni che l'abbiamo massacrato col cemento, facendo costruire senza onere di urbanizzazione, dove non c'erano le fogne, eccetera, eccetera, l'autonomia speciale siciliana serve ancora come scudo per fare cose di questo genere? Io alzo la voce apposta perché vorrei parlare non ai solo ai siciliani che ci ascoltano. E guardate, nelle trasmissioni noi abbiamo ascoltato regolarmente non solo chi proponeva il maxi condono esplicitamente, ma anche coloro delle case nella fascia dei 150 metri che tentavano di spiegarci che le avevano tutte fatte per bisogno. Ma capite che una legge regionale di recepimento, che in realtà fa l'esatto opposto di quello che c'è nella legge nazionale, è un caso clamoroso. E vabbè, ci fermiamo adesso per un minuto avendovi spiegato questo, ma ce n'è anche un altro di passaggio della legge regionale rispetto a quella nazionale che anch'esso, per così dire, diciamo, mi limito con una gentile perifrasi a dire che fa grattare la testa, perché a me in realtà suscita altri tipi di reazioni. Tra un minuto. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Devo dire che sono confortato dall'ascoltatore della Sicilia. Ne prendo solo uno, Franco, per tutti, che dice: lo Stato dovrebbe farci un regalo a noi siciliani onesti, togliere lo statuto speciale. Sono parecchi. Devo dire che purtroppo io considero da questo punto di vista un'occasione persa la riforma della Costituzione, di cui poi c'è il referendum, perché non si tocca questo, non si tocca il numero delle regioni, non si tocca il numero dei comuni, eccetera, eccetera. Però detto tutto questo, è ovvio che l'indignazione sia per i maxi compenso 800.000 a testa euro per i due commissari in un anno e mezzo, più i 430.000 dell'ex prefetto di Messina, dei commissari nominati dal prefetto di Catania, adesso c'è un'impugnativa di fronte al TAR del Lazio, ma soprattutto nello scoprire, grazie all'avvocato Rocco Todaro che è con noi, che la legge regionale siciliana questo agosto, la numero 16, con cui si recepisce il testo unico dell'edilizia nazionale, il testo unico dell'edilizia nazionale dice una casa, se vi si è operato sopra delle modifiche eccetera, però si può inoltrare la domanda di sanatoria solo se conforme alle norme che erano vigenti quando è stata realizzata l'opera e a quelle vigenti quando si inoltra la domanda. La legge regionale siciliana dice solo basta che siano conformi alle norme quando si inoltra la domanda, il che significa basta fare un bel condono a livello locale, si cambiano le norme violate quando in realtà l'intervento sulla casa è stato fatto quando è stato fatto, ed ecco che è possibile la sanatoria. È l'intento opposto rispetto a quello della legge nazionale. Andiamo all'altro punto che sempre l'avvocato Rocco Todaro ci ha segnalato e lo ringraziamo. Qual è questo secondo punto? Il secondo punto è quello relativo alla cessione di cubatura. Di cos'è cubatura? La cessione di cubatura? Sì, quando un cittadino è proprietario di un terreno che non è sufficiente a coprire gli standard urbanistici, cioè quando è troppo piccolo per realizzare una casa di un certo volume, tu vuoi fare 100 metri cubi, hai un terreno che non rispetta quegli indici perché è troppo piccolo, puoi acquistare da un terreno confinante o comunque, diceva la giurisprudenza, prossimo, molto vicino, il volume che è a disposizione di questo terreno. Cioè te lo compri con un contratto e quindi tu puoi costruire un edificio che può essere più grande rispetto a quello che potevi realizzare utilizzando solo la cubatura del tuo terreno. Perché? Perché adesso hai la cubatura del tuo terreno più la cubatura che ti sei comprato dell'altro terreno, il quale altro terreno però contemporaneamente, avendola ceduta a te, questa cubatura perde la possibilità di utilizzarla per una futura costruzione, cioè lì non si potrà più costruire. E questo si poteva fare, secondo un insegnamento della giurisprudenza, su terreni confinanti o molto vicini. Sì. Questo limite è espressamente eliminato nella legge regionale, la quale dice che è sufficiente che tu compri la cubatura di un terreno che abbia la stessa destinazione urbanistica tua. Quindi, in teoria, ma qui mi rendo conto di fare una provocazione, ti puoi prendere la cubatura di un terreno che è a un chilometro di distanza da quello tuo per utilizzarlo e realizzare una casa più grande o sempre per sanarla. E quindi, diciamo così, tra amici è possibile una riversatura di cubature, per così dire. Esattamente. Io, se mi è permesso, volevo dire una cosa importante, secondo me. Mentre un condono fatto per via legislativa rappresenterebbe un'assunzione di responsabilità dell'assemblea regionale, sì, cioè dell'organo politico. Sì, sì, almeno si assumono la responsabilità, lo apro. Certo. Qui cosa succederà? Qui succederà che tutte le amministrazioni dei comuni siciliani riceveranno le pressioni da parte dei cittadini, certo, quali gli diranno: ragazzi, allargate il piano regolatore e fateci rientrare. E tutti saniamo. Noi vi votiamo, voi siete contenti, noi pure. A questo aggiungici che una sentenza della Corte Costituzionale ha abolito il controllo preventivo sulle leggi della Sicilia che prima venivano impugnate dal commissario dello Stato. Quindi adesso dobbiamo aspettare che un tribunale, che per una ragione qualsiasi si dovesse occupare di questa questione, mandi la legge alla Corte Costituzionale anche per un altro profilo, perché l'accertamento di conformità comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali. Cioè tu estingui un reato con l'accertamento di conformità. Quindi cosa accade? Che in Sicilia lo estingui. In Calabria non lo estingui. Siccome questa è materia penale, non può essere coperta dalla penale, non è coperta dall'eccezione dallo statuto straordinario. E quindi probabilmente. Vabbè, io spero di aver grazie avvocato Roccatore, vi abbiamo spiegato questa cosa di cui effettivamente si era reso conto lui. Ma un'opinione al volo, caro avvocato, su questi compensi maxi dei commissari di cui si era occupato, grazie a chi me lo ha segnalato, l'ascoltatore che mi ha segnalato, le Iene se ne era occupato qualche mese fa. Ma non c'è niente da dire su questi maxi compensi dei commissari all'immondizia nominati dal prefetto di Catania? Guarda, io ritengo che questo sia veramente uno scempio da un punto di vista della legalità. Sa perché è successo? È successo perché per un vuoto legislativo. Per un vuoto legislativo. Sì. Nominano loro. Vabbè. Avvocato, ci dobbiamo salutare. La carica di indignazione, spero sia stata ai nostri ascoltatori. Appuntamento domani mattina alle 8:20 con me, Alessandro Milano. Attenti a noi due.